intendo è uno splatter che tipo su 14, se c'è una forte, fa un esempio, tipo Claudio, lo sento bene come se fosse nel canale 10. Cioè, dimmi che sto parecchio a problemi di frequenza, ricordi. Non è tipo, come dire, schermato bene, praticamente si sente uno che sembra su canale 10 invece su 14. Cavolo, difettino pesante, quello è un filtro, quello è sicuramente un filtro o l'accoppiamento del filtro. Vabbè, ho capito che è in buone mani, sicuramente ci lavorerà di fino, perché è un problemino un po' delicato, cioè non è chissà come grave, però è un po' delicato a sistemare, capito? Già lo so che è delicato, infatti mi ha detto che ci provo l'ultima volta, perché se riapre potrebbe dargli un altro problema e poi ci sono altri problemi da risolvere. E comunque avevo un po' di graffi sopra, come me l'hanno venduto, meno male mi ha riverniciato i coperchi. Ah, perciò mi ha fatto anche il backup. Così più carino, là. Anche come la tua stazione è molto bella, diciamocela. Adesso si sta anche espandendo, altre stazioni base in arrivo. Ti capiva cosa vuoi fare, la centrale nucleare. Ho trovato un bel modello che mi ha consigliato Giannangelo e quindi l'ho preso subito. Cappa, non ci puoi anticipare che cos'è? È andata la foto, lo Zodiac. Ah, bellino, è bellino forte, è vero. Aspetta che ti apro il messaggio che non ti ho letto. Stiamo monopolizzando, poi Gianni si addormenta, sai, già non gli lecca la faccia, Gianni. Oh, te sono vai nel mondo di sotto. No, l'ho visto io quell'apparecchio e aveva pochi canali, ho detto adesso lo dico a Riccardino che lui c'è collezionista e anche se ha pochi canali non ne frega nulla. Mi è piaciuto subito, dico la verità, esteticamente mi è subito piaciuto. Sì, sì, una bella stazione. Anch'io però vado sui 40 canali, la linea è 40. E poi le cose non riesco a collezionare, le devo usare, capito già? No, quello ne ha 16 perché è stato fatto per il mercato tedesco. Ne ha 16 da M. E infatti, vabbè, che se sconti che parliamo sempre su 10 quasi quasi, non è che sia la grande cosa avere 40 canali, E vabbè, ma se ti rompono le scatole ti dicono vai sul canale 20 dove vuoi andare, capito? Quello è il problema. Comunque è bello, funziona tutto, l'orologio, tutto, è perfetto, nuovo, quando ti arriva me lo fai sapere, Riccardo. Te lo faccio anche vedere. Ma comunque io, se la fotografia è quella che dell'apparecchio originale, è nuovissimo. Già è originale perché gli ho chiesto i video. Ah, te li ha fatti? Positiva K. Rogero, sì, me li ha fatti e me li ha mandati. Cavagala, ti ha chiesto qualcosa di me? No, niente, non ha chiesto niente, ha detto, Babbo è riuscito a convincerlo con un altro pagamento e così non c'è problema, perché bonifico bancario non ne poteva fare, quindi ha fatto altro. Io vi lascio, saluto a tutti, scusate, vado a prendere la carriola che devo portare tutto dentro, devo portare K, Trio e tutte le stazioni base, faccio tutto un carico. Sì, così vi graffi tutto. Ciao Riccardi, buonanotte. Dai che mi guardo un po' di TV, fanculo un po' cavolo lì, qua. Me ne vado anch'io, cioè me ne vado a nanna, sono già nanna, vuol dire. Mi guardo un po' il TV e poi niente, che domani 4:30 e 5 come al solito mi amo. Ciao Fabio, ciao Gianni e ciao di nuovo Riccardino. Buonissimo quando farete, alle prossime, ciao ciao. Non c'è nulla in TV, cosa sei a me, ciao ciao. Ah? E non c'è nulla in TV, non ce n'è donne. No, mi guardo cartone nanni. Ciao Tonino, saluto a tutti, ciao Tonino, ciao Gianni, ciao Fabio, fatti sentire domani quando passi che così, che me lo dici almeno, tanto te l'ho detto, mi adeguo ai tuoi orari, non c'è problema. Ciao Tonino, ciao Riccardino. Domani mattina faccio le commissioni veloci e poi siamo proprio di telefono, ci mettiamo d'accordo così sempre se quando arrivo, dai, che vediamo questa cosettina, la chiudiamo subito. saluto, ma anch'io annuncio le mie cose qui perché mi sono occupato orario e devo scappare anch'io, perciò saluto Gianni, saluto Tonino, saluto gli ascoltoni e un po' gli avanti alla ruota, e poi se sento qualcuno sotto adesso no, che non ho capito e mi dispiace, ancora sono in queste condizioni. Ciao, ciao Fabio, ci sentiamo. Ciao Fabio, buonanotte. Gianni, ma stai sto dormendo, perché ho bisogno che tu... No, io non aggiungo una parte. Non ne ho voglia, ho passato quell'ora, poi non lo avevo più. Adesso ho passato l'ora fatidica del sonno e ne rimango sveglia. E allora faccio, ti prendo, ci riusciamo, ce ne va a passeggiare. Poi adesso le 2 le 3 ci facciamo una bella spaghettata di oggi. Sì, noi dobbiamo funene. Oh, yeah, penso che mancate, fare il pipistrello mi piace. Sì, non la prima volta che l'ho fatto, no? Sì, anche io. Mi chiamavano pipistrello, ma mi piaceva di tutti in giro. Oh, yeah. Alghello, tutti i ribassi andavo a ballare, nei pub, nei ristoranti, da tutte le parti. Niente, devo fare quel microfono a Cicomino qua. A Manuele, ma ripeto, non va a giocare, domani ce lo faccio, non ne ho voglia. Ma come se non c'era la portabatteria? Allora, c'è la portabatteria, ti manca stampa per la batteria. Adesso guardo se ne ho qualcuno, io li tappo per le batterie. L'hai visto quel microfono? Sì. Quello lì che c'è una batteria da 1,5, vero? Yes. Poi lì forse c'è un buco, no, se devo controllare. Ui, vabbè. Dopo la questione, non posso controllare la parte, sta così bene. È inaugurato, no? Eh? È inaugurato? No, assolutamente. No, perché da lì poi sono andato a fare il caricabatteria dalla 50, lo esce, e poi sono andato a fare. Ah. Domani mattina le scimi cominciano, ta. Domani è coraggio lo io fare. No, mi è piaciuta la verità, io sono tipo che lo so, quando piace la cosa, aiuta gamba. Tony, io la cosa la tengo bene, già lo sai. Non è una roba vecchia, tutta truccata, tutta graffiata, no, non mi piace, non le prendo nemmeno se è così. Vabbè. Ma giustamente, meno male avevo quei spiccioli in tasca. E vabbè, non li fanno più tempo, non mi sono, ci sono gli orecchi di porco che ascolto. Ecco. Non so come fare, che non fanno di altro. Oh, avete visto bene in tasca. Figura di tu. Poi se sono un cuccioli gioca ancora di più. Ehi, ma non vuoi già, però vieni qua, ti va tutti come uguale, ti vedi. E io ho quella piccolina marroncina che è chiediosa, ma faccio per il casista. Ah, cosa, ma so se fa 3-0, ma. A peso mi farebbe bene correre un po', perché tra me una passeggiata così non fa altro, prima lo portavo al parco, adesso è troppo grande e si bisticcia con gli altri cani, capito? Quindi non fa manco a portarlo. Ma per me è tutto registrato qua dentro. E lì si mette a correre, fa una parlata a correnti e sono veloci, capito? Però ripeto, è dentro, è tutto registrato, non scappa. Pagato. Oh, yeah. A lui se tu lo vedi correndo devi fare la ripresa, sembra un rallentatore come corre. Che presente la mano come corre, la stessa cosa. Esatto. Oh, yeah. No, a me è più dopo l'ho visto. Poi il cane se ne accorgo, se tu hai paura di lui o meno, io no, perché ripeto, sono già in cane, metti il cane in piazza, no? E il cane se ne accorgo se tu vuoi bene il cane. Ehi, quello lì ha sbarrato gli occhi come è uscito, venga, si sta avvicinando, mamma mia, che domanda per dire. Chi ti si vede male, faccio il cane, poco. Non ne accorgoli. Adesso domani viene, bisogna che lo chiuda prima che arrivi, perché sennò guai. Ma tu gli dici, ne vuoi tramico mio, anzi, e butta giù qua a fare. Allucinante, dipende, sempre dipende. Io non è che mi fidi tanto di Tyson, perché Tyson è un cane che va a pettini. Vabbè, ci sono due anziani che gli è morto il cane, lui era molto amico del cane di loro. quando li vede da lontano li va li salta addosso, le feste che mi fa. Lo sto mancando da a pochi spaventi. Ho sentito di nuovo la prima, sono tranquillo che non se ne ha fatto più della pizza e dopo l'ho venuta. Si chiamava Birba quel cane, ma lascia quanto era bello. Era una femmina. Giocava un bel contagio. Ok, siamo poi di intorno, sto vicinato praticamente, ciao a tutti i nomi, Bruno, poi c'è Ayu, l'altro Pilotù, che lo mettate. Asterico un po', Cigugi, Dundun, Cassandra, tutti i cani di un amico mio in campagna. C'era prima anche prima taxi pure, per cane labrador, è morto, spiego come. Allora, faccio un cacciatore di ripeto, sono da là, no? Si è scherzato. E lì questo labrador aveva il vizio di andare a bagliare sempre, a bagliare, solo una volta. Niente, gli rompeva sempre le palle, ma poi c'era un salto, poi c'era anche lo chiuso. Un bel giorno cosa è successo? È andato in over rosse le palle, è entrato la testa tra le due stecche del cancello, quello è andato messo a musicato, lui con la testa tirata, la torta fuori veloce, e si è toccato molto le cose. La lama? No, no, labrador, è rimasto molto lì. No, ma dico, la lama l'ha musicato. No, si è bloccato per la lana perché l'ha visto che non reggeva più, è morto. No, io... Invece quello di quella donna è morto per una puntura di zanzara, no, di zecca, era inquinato tutto il sangue, ce l'aveva in mezzo alle dita della zampa. Infatti adesso sai cosa faccio? Porto una da giù, ne allargo le dita, li passo sempre il fazzoletto in mezzo. Io posso dirti una cosa, io mi sono vaccinato, mi crocifi, tutto, io non ho una zecca qua, perché altri animali non entrano, sono pulitissimi, non hanno neanche pulito, non hanno niente. Il terreno è pulito, io ho le aiuole, lo giro intorno alle aiuole, eccetera. Però ti posso garantire che tutti quelli che hanno portato qua, zecca non ce ne sono. No, lui mette tutto l'anno le gocce, le metto le gocce nel collo. Cavolo, quelle lì sono per le cuci, per le zecche, mi vanno lo stesso addosso, però poi muoiono. Capa, cos'era poi il frontline che si mette dietro il collo? Sì, frontline, sì. Avevo già detto per la fontana che lo ucciso prima, dovrebbe essere un po' per. Io quello glielo metto tutto l'anno perché d'inverno ci sono le zanzare e se ti pungi la zanzara, se ti pungi il carne mi fa venire le svaniosi che non curi più, mi fa morire. Dopo che l'ho fatto questo paio, che l'ho fatto la mente. Sì, sì, adesso chiedi però al veterinario da quanta che tagli lo puoi mettere, perché mi pare che si metta dall'anno in poi. Io ho quella cosa contro le zanzare, faccio vedere la luce viola, che l'ho fatto grande. Infatti non si può trovare l'acqua per passare il giacese per le zanzare al centro. E quella quando è già dentro, fa uno scoppio, e le fa arrosto. Eh? E fa arrosto. Le disintegra, le scoppietta proprio. Un'esplosione, guarda, lo forte. Poi più grande l'insetto e più casino fa. Non so, ce l'aveva mia sorella al mare, ce l'aveva fuori nella veranda dove mangiavamo fuori, no? Quando andavamo noi. Lo accendeva, accendeva e se ne... E fatto quel casino, io preso quello grande, poi l'ho fatto. Da piccolo. E ho fatto quello stesso. E adesso fa bene ciò per le giornate, cacca, cacca. Infatti, non posso nulla, ma quando ho fatto il capo con la gente. Comunque, domani è bellissima giornata, a quanto pare poi ci rovina di nuovo, che è per cui cosa. Bisogna che mi pulisca quelle canne, ce l'ho ferma in troppo tempo. Ne ho una pronta per i calamari e le scimmie, le altre sono tutte da lancio. Però sono 4,50 metri. No, 3,80 metri, 3,50 metri, ma lanciano bene, ce n'è una sola da 4 metri qualcosa. E io ce l'avevo 3,50 metri, poi l'ho tutto dato, sono solo il pallo, non vedevo nessuno a pescare con me, poi ho due cannette piccoline e telescopiche, e vabbè, ce l'ha fatto più anche. Ah, ce l'ho io le canne, non è un problema. Ma io, cioè, quando vedo una passione di una cosa, mi faccio una bella attrezzatura, poi commesso il baracchino, tutto, diciamo niente, brutto, tutto per la prima volta. E quindi con le canne, avevo una Nike di canna, guarda, 4,50 già, ma così proprio fortunata, proprio bella quella canna, guarda. Io ho un Olympus piccolina di 3,50 m piccolina e la chiamo la cannetta cannosa, ne ho grandi, ne ho più lunghe, non pescano nulla, con quella piccolina piglio sempre col mulinello piccolo e la canna piccola piglio sempre non bagno, c'è anche un'orata a 3,8 kg. Ma io l'ho preso un'orata, allora c'è la colana e c'è il portatore che mi porto fino a Forte Pratici, piccola moglie, allora, ora me lo alzi, e mio fratello mi fa Tonino la canna, ma la guardo, sono dopo, aspetta, ho fatto tanto, prendo, recupero, ora con mezzo tiro, così, via, ho quel giorno e lascio, e te Tonino la canna, ma sono stato, guarda, roba di un'ora, sono pescando, qui, avevo appena riempito per un ciclo con il vita pieno di orato, poi non so cosa più. Poi dopo un po' si fa, la canna si è piegata in due addirittura, ma la guardo io e faccio ma che cazzo è? Piano piano, sento che tu mi hai tirato a forti, comincio a tirare, recupero, cazzo mio razza, già, l'ho tolta perché ti sono perfetto, non ti preoccupare. Bene, la colpa non c'entrava, era grande, cosa posso dire, più grande dello scudo dello zippi davanti. Cioè, presenza. Prende lui con la lenza, la tira su e se la guarda, molla, e poi è troppo il pallone, e c'è qui un pesce, ma sono stati qualche 2-3 secondi, già molla, ha tirato due culturati, un pesce, si è sganciato sulla mappa, se l'ho fuggito, e mi ha fatto un butto la bagna, l'ho perso. Ha fatto un uso sportivo, ha fatto un magazzino, ha fatto bene, da lì che ha parlato con il capo di orata che è fuggita, non ho tutto quanto visto. KK, a me è successo a Monoasi, però non in fondo, nelle prime curve. Andavo io che andavo all'inizio, c'era gente a casa con Carli, dice usciva al faro, oh no, io prendevo all'inizio e pescavo sempre. Cazzo, prendo di giorno, sono andato. E mia moglie mi fa, già, tanto non c'è nessuno, mi pare che mette il costume, è buono il costume. E stavo lì, stavo prendendo il sole, e si è messo una straia e mi sono così appiccato. Beh, fatto sta che prendo un raschetto di quello che usa le murature per raschiare il muro, non ci avevo, è il coppo, e ho raschiato un po' di coste dal muretto che c'è nel muro. Prendo un po' di cozze, prendo due o tre cozze e le metto nelle canne e poi vado a prendere le altre cozze. A un certo punto aggiungo un cucchiaino col manico girato per farne assegnarlo. Sento, bing, un cucchiaino si farà di neva. E la canna comincia a tirare di cazzo, l'idea, cazzo, l'idea non comprendia, non intendia, pure da lontano, cazzo, mi a correre, io l'ho fatto in tempo a mettere il piede sulla canna perché mi stavo buttando in acqua e sento questo mulinello, cazzo, io c'ho uno Shimano 8000, quello che contiene 300 metri di lenza 0,30, 0,35 anzi. Cazzo, partito il mulinello, cazzo, è arrivato quasi a fine corsa, poi sento, spaccata la lenza, cazzo. Non so che cazzo di pesce, lì se la mando un vino, e quella era orata, perché era innescata con la cozza intera. La cozza non ha fatto la cozza, non ha fatto la cozza, non ha fatto la cozza, non ha fatto la cozza. Io sono andato a Castelsardo, al volo, al porticciolo in punto, ma sto parlando prima che lo gettassero e hanno cambiato tutto lo che c'è nel telefono, la verità. Dovevo andare con un altro CP, che pure non c'è più stato da solo. Beh già, c'era una tana particolare, che tu buttavi dalla insta giù, come sto familiare, dovevi giocare col biondo, sotto che è uscito, ci deve ancora più giù, devo andare a fare. Metto tutti con le sciatine, metto tutto il campanaccio, come metto il campanaccio, vado a una sigaretta, parte la campana, che comincia a succare, picca e picca. Tiro su, pulito, sotto una lampadina, e io metto giù, ho la lampadina già sotto fare, tutto di lavarla. Niente, stesso lavoro, metto lì, tru, parte il corpo, sedina, non ce l'ha più mangiato, e trovare un po'. Prendo la fatina, la calo giù e la lenza in mano. Beh, già, mi sono ficcato. Mi ha tracciato la lenza, la mano si è scesa giù con la porta e mantenevo io, ho fatto un colpo secco, niente. Cazzo, metto l'ancoretta, metto la sardina, metto giù un'altra salzata, mi ha drizzato l'ancoretta, beh, mi ha mangiato un chilo di sardina, non ha cambiato nulla. Certo, da qualche cena, qualche cosa così. Io ho qualche grongo, l'urena, questa roba così. No, io ne ho perso la planta buona, sono stata minimo 4 kg. L'ho portata sino alla battiglia, c'erano di quelli continentali raccogliendo le conchiglie, come la vedo. Oh, com'è bella, voce alta, cattedrale, tappita, pa, mi ha spaccato la lenza. Io, no, che ti ho inteso, pizza sassa. No, ha detto, oh, com'è bella, ha gridato, io cazzo, quando prendo l'orata mi abbasso pure, perché l'orata è come vederlo una tira di colpo, capito? Cazzo, quella era bella, mi l'avevo portata a pelo d'acqua, l'ho vista, era enorme, era grandissima, cazzo. Dunque, posso dire una cosa, che in spiaggia è molto più bello pescare, perché viene tranquillamente, di notte, che l'orata... Paragone, insomma, chi sia un marmorone, mentre invece se si mette le rocce è un casino, perché devi battagliare, è un casino, ci vuole il corpo per fare le cose, un casino. Io in spiaggia pesco così, come arriva l'onda, la tiro fuori, di notte orate non le ho mai preso, le ho prese verso, andavo verso le 8, dalle 8 alle 9 potevo prenderle, poi cominciava altro tipo di pesce, i mormoroni, razze, ti posso dire anche qualche sara che ho preso, una volta ho preso una sugliola. Ma io andavo al sito a Pistria, praticamente dopo la marina in sotto, se devo c'è con la Vicenza, a sinistra come entravo poi c'era un piazzale enorme, enorme, c'è anche un bar sulla sinistra, io andavo lì a pescare. E lì sulla sinistra? E infatti io prima del numero potevo pescare, c'erano ancora i bagnanti. Tanto si andava lì, c'erano la ciabba, ci preparavo fumato per il canne, tre canne davanti, ho fatto 20:50, far light e tutto. Cosa andavo tutti, mettevo il tavolino, il sedevo, boh, aiuto, lanciavo. Fatto americani e bimbi usavo. Ma se mi veniva mi faccio usare, ma ricavo Maria, mangiati via. E anche io, gli americani e bimbi usavo. E pescavo sempre, quasi sempre, da qualche volta mi andavo senza nulla, ma difficile. E poi per i bimbi che lo so, l'americano, usavo l'ago. Perché il liquido non dovevo uscire, perché ci siamo liquido, ciao. Il bimbi ci vuole l'ago rotondo, non con la puntina. Invece l'americano ci vuole l'ago a puntina. Poi l'americano troppo sangue, cazzo, dove ti mangiava, dove ti spalla. Poniamo su, cazzo, via, andiamo in un preso qualche di voci nel verbo. Ora ci sono il coreano, se guardi bene c'aveva 4 figli, cazzo, un filo si è stato abbattito, non moriva più là. E dopo ti resta il dolore anche dopo. Che bello è pronto, coreano, non vai più cinesi, ti lascia il timus, che poi ti lascia il dolore anche dopo che te lo stacchi. E allora, poi c'è quattro verme che quando devi sopra la sabbia, il mio bagno asciuga, quello che ti chiami lo stesso, la ridicola. Quello rosso, sì, quello è bello, quello rosso e azzurro rimane. No, ma io da sotto la sabbia, sai cosa facevo? Prendevo un bastoncino, una canna, e legavo col filo elastico una sabbia, ne filzavo nella battiglia e uscivano i granchietti di sabbia a mangiarsela, li prendevo a 10 a 10, mi chiedevo a cosa la... a Mario Massa, che una volta è venuto con me, a 10 a 10, poi l'ho quelli sotterrati, ci sono certi che se li portano a casa poi li muoiono e si rilampano, invece li risolterò, faccio il buco, li butto sotto la sabbia, quelli che non consumano, li stacco la zampetta di dietro, se no scavano nella sabbia, se ne vanno sotto e non li prendo. Poi dentro l'amo dove gli manca la zampa, uno è trattori e uno messo al senso inverso, sempre dietro, e poi li lascio andare, loro camminano, il pesce li vede camminando, tacchi li si tira in alto. E le orate che pigli lunghi si va orate, però. Sì, è grosso, ma non su qua, un fosso, forse canetta, valenza, ma guarda la sardina, e che le tira il fosso di grecchini per pensare. E ne ho fatto, guarda, io ho pescato una bella burena pure a Porto Conte, dove c'è il faro sotto, dove io a pescare. Un taggito non ne parliamo, ho pescato che mi sono fatto lì, ho preso anche un bel topano enorme, non ho mai visto una cosa del genere. Ancora non ho pescato con la vetta, c'è una sardina a bagno, tanto quando l'ho visto, andava a piacere in mano, non si impatta, cazzo, fa un po' di tempo. No, io il topano messipi e queste cose ce l'ho tantanata. C'è la tantanara per pescarli, e con la canna lancio, c'è un mulinello piccolo e tiro piano piano, giro piano piano il mulinello, non lo vedo camminare, insomma si tirano insomma sopra la tua. Poi, il calamare mi seguiva parecchio, il mio cognato mi ha proposto dove a Balai, dove c'erano quelli di fare il luce giallo, lì ci mettiamo lì. Lì c'era una volta, e mi sono accoragliato a fare di pasta, ora che si dica, non si fa di quando, morta, non si muova la mano, non si muova, non si fa di giustizia. Te l'ha furata, e ho capito dove c'è la chiesetta di Balai vicino. E io gliel'ho furato, ce l'ho fatto stato con la mia, perché mai è fermato lui. E hanno detto che bisogna passare un bel calavano, dove c'è la chiesetta di Balai vicino, ne prendono anche 25-30. Sì, ma lui è una pescare a gennaio, più freddo c'è, dice, più c'è nero. Sì, è vero, è vero. Deve esserci un po' di freddo, ma ti cancare e ci parla. Vabbè. Lui non c'ha per recuperare, non c'ha per recuperare, ho lavorato una gabbietta. Non so come ha fatto il coso per il calamaro, questi figliati si può puntare, insomma, doppi, dritti, eccetera. E lui l'ha preso la gabbietta, mi sono fatto una mente, l'ha rifiuta, lanciava, recuperava. Non abbia con me, che mi ha messo il calamaro, ma non è mia sorella, ce l'aveva fatto tutto il pieno. E adesso lì c'è un po' di gente, però è pericoloso. Perché è pericoloso? Perché se scivoli di rotta c'è pari tempo. Ah. Ma è doloroso questo apparato, avevo due braccia gessati. Mi è andata bene. Poi, e se no pescare, hai visto dove c'è la chiesa di mare lontano, dall'alto, a pescare saraghi, saraguri di qui da un chilo e mezzo, poi devi avere il copo a paracadute. Sì, ma quando sei immaginato un qualcuno quando tira un pezzo, che coppa di nomi? I colpi che si lanciano sono quelli a paracadute, li butti sotto la luce e non prendi. Sì, poi se andiamo a pescare verso lo spettino, guarda per la giornura, preso la morena anche lì, proprio non ne parliamo, guarda. Ho preso 9 kg. No, io non ho preso uno da 5 kg e qualche cosa, 9 kg non ho mai preso. Però ho preso grugli grossi, un groppo a 3 kg 9,50 pesato. Guarda, salito a Ferro Torres, a Baracchino, non so chi c'era come Giuseppe Romani, era genius. Ehi, mi ha preso un po' forte, però 5, 6 kg, ne ho 7, ne ho 8. E c'era, la donna di Giuseppe era 3, quello suo. E io ci ho preso, ha preso un moscardino, ha detto Giuseppe, sto passando a casa tua, e te lo faccio per il capitale di Marsiglia. E allora, nella macchinetta, non ricordo ancora, come c'è, te l'ho preso, capisci la piovra, enorme, guarda, mi sono finito a pigliare. Sì, sì, no, qui ce n'era un damo cantante, sia gruppi che pulpi. Meglio. Poi sono trasformato a prodotti della 50, sempre a Montatane sono andato e sono sopporto la bambù io. Ho detto già guarda, lo vedi il porto, dice non vedo niente, buttavo la pila, non lo vedi che mi fa aspettato. Ho preso veloce la 40, la tortigliana, tutto giù. E sentivo lui si è aggrappato, si è trovato la 40, ha detto già va, conta fino a 3, perché conta fino a 3. 1, 2, 3, mi tiro già per il colpo, un po' giù con chi, la tua riglia. Un'altra volta con Mario Barbariccia, ero fa questa, questo di fare un M50. Siamo andati a Fintino di sopra la corrotta. Per farti che la giunto quanto, butto la tattina, arriva di Mario, ehi, ma ero che poi qui non è più. E tiro, che mi sta smontare, ma non so perché non fai con tutti. Dice perché? C'è quel vissuto che sta messo fa del solito. Ma non è così scherzando, dai così subito adesso, allora qui con Pallo, perché c'era anche il Modigliano, il Modigliano se lo ricordo perché era con Angelo, la moglie, poi sono stati l'altro. Certo, se adesso lo dice subito, tira la campiana, fa un piano, tiro un po' per dei chili, altri cappato di Dovito. E Modigliani usciva a pescare anche con le reti quando ci hanno fatto a casa un po' la quinta o piedi dietro del culo. Veglia. Non l'ho più visto, però dici che c'è venuto a questo, dai. E a te? E pare che faccio a farlo, perché io la compagna ce l'ho di circo. Ho capito. E è piccolino le dico le circo, eh. Adesso non lo so se ce l'ha ancora, ma se da poco tempo fa c'è aveva le dico. No, tu. Nino però bravo, non l'ho più sentito. Io l'ho perso da quando c'aveva la pizzeria in via Balaia a Porto Torres, non l'ho più visto. E di fronte io ho avuto la buona diversa detta, dopo ci avevo stato l'importo. No, ma in quel portone di fronte alla pizzeria? E qua, numero 54, parla per il giorno, allora, c'è il tabacchino, poi, troppo, il giuraio, macelleria. Truia. Eh? Truia. È una signora che si chiama Truia di cognome. Ma tu hai pagato? Davvero, in quel portone, le facevo le consegne io. Truia, tu fai critica. E infatti, questa è la prima volta che ho letto il nome. Da comunque, allora, ti spiego come io andavo a toccare il dorato a Porto Torguardati. Come entravo nel cancello, nella porta centrale dell'Asi, anziché andare dritto, andiamo sulla sinistra, in fondo e fondo in fondo, facevo il giro, entravo dove ci stavano le parti, andavo in tutta e mi ci pensavo a togliorare. Ah, ho capito, ci andavo anch'io, lì poi avevo un fiato della Sirvi, mamma mia. Sì, lo so, quando ci andava bene, a volte se andava più duro ci faceva entrare. Allora c'era il custode che chiudeva il cancello, ci veniva, ragazzi, ma dovete uscire? No, domani mattina, perché devo chiudere il cancello. Cazzo, stavo tutta la notte lì, ma prendevo voce di pagini, di grossini. Ma pensavo bene, era un bel passaggio lì. Io raggio non è Fabiana, perché almeno ho ripito un sicchio io per ricordo la pista, più ho raggio, perché tiro uno. E infatti una volta mi sono messo a messaggiare, tu pensa, c'era mio nipote e mio fratello che sono qui a pescare presto, io mi sono già messo alle 9 dopo la cena. E beh, cosa avete preso? Io ancora nulla, non ho niente di dato, che sono fatti via, poi metto io, metto il verme, lancio e metto a messaggiare. Tornino la canna, lui recupero un pezzo di dorato a messaggio, metto il sicchio, slanto, metto il verme, lancio e messaggio. Torino la canna, mollo il telefono, prendo, ritiro, recupero, orato, mezzo chilo, mezzo cinque, insomma, tutta la gente, ci sono una bella ma è tutta felice a fatto. Allora dice, per esempio, cazzo tu sei bene, non basta un bagno per dire l'orata. Allora io una volta sono andato a Porto Torres alle 4 di mattina e c'era un tipo che stava pescando e ha detto, beh, qualcosa mangia. Anzi, non mi ha guardato di sbiecco, mi ha detto buongiorno e non mi ha risposto. Di solito ti rispondo. E per me mangia e lui non rispondeva. No, ha fatto una faccia strana. Come dire che non riesci a scocciare. Cazzo prendo, metto le carne. Cazzo manco bussa, tu ripri, cazzo mi morata. Sarà stata mezzo chilo anche quella, mezzo chilo 600 grammi. Oh, manco farla apposta, l'ho messo due carne, cazzola, dopo l'altra, sì, torna il cucello, fa gente fa bonito, mi si è pigliato, si è seduto, ha pigliato il sicchio, il cazzo sarà fatto, ci aveva solo acqua dentro il sicchio, ci ha buttato l'acqua e si è andato, cazzo. Allora, questo ci siamo andati a portare a Porto Torres, andiamo lì, e mi ha giocato il cognato, tra la vita, è un esperimento, cioè. E c'era questi due anziani che stanno pescando a palavitto, anzi quando tiravano giù faceva, ehi, cazzo, penso, se ci penso vicino a loro, ha dovuto più ragione con la bambina. Per me Dio va a piccare, non vuol dire sì. Un'ora tiro a vedere le palle, da tutti ho fatto il paragone, pigliava. Poi, insomma, la pensione di lì, tutto mi raccato, un roba ci pigliava, un roba, tiro sopra le otto, cazzo, non roba che hai detto, che cazzo, mio Dio, tu i paragoni, non vedere le palle, mi aveva fatto il più cazzo. E una volta lo stesso, sono andato, conoscevo tutti a Porto Torrigio, dopo che uscivo da lavorare me ne andavo a pescare. Portavo l'esca e un giorno non ne avevo di esca e ho preso dalla pescheria, mi sono comprato un po' di buco di femminetta. E sono arrivato lì e ho detto, sì, a mangia, e tutti quanti, oh, già non mangia nulla, tutta la di rocchi, non ha mangiato nulla. E cosa vai d'esca? E ho detto, io c'è buccuni, mi c'avevo pochi soldi, mi sono preso un pugno di buccuni. Fido, apro un boccone, non mai visto chi si non li mangia. Butto due canne lontano e un appello di panchina e metto il cucchiaino, a un certo punto vengo il cucchiaino, brindico e pappella lampando. Credo fatto porta il corpo a casa, l'ho sentito un po' pesante, la cava si piegava a casa, e cosa ci vedete? Una taruta era un chilo e mezzo. E cioè? La taruta è della famiglia di Sara, che però rimane più scura. Io invece lo posso a pescare, devo andare a Grunghi, io me lo pescare, che successo, la fretta, perché la bussa che la cedette delle sardine, non che macchina a farlo, andando a pescare, ho fatto sempre un cazzo, basta usare, ando a prepararmi, ando a aprire la busta, e già, non l'ho preso il pezzo, non l'ho trattato, era il pollo. Cazzo, il pollo, no, è piccato con un pollo, non mi lo dico. No, è cazzata per pulire non è entrato. Cazzo, dopo le domande, brava sto guardato. Ah, noi invece una volta stavamo mangiando dei panini, Edoardo, che stavo in cui ho scherzato, e stava provocato si mangia nella mortadella. E la busta nel nabo la mortadella. Beh, non sai che ha cominciato a prendere di quei roccali, ma anche di si grossi baromi. Si mutiano tutto, cazzo. La mortadella picchia i roccali. Invece mio cognato, la buon'anima di Michelino, perché lasciavo proprio dal professor, andava a pescare e recuperava lui col coppo l'erba marina, qui si mette già un po' da bufa, beh, pigliava le salte, era massa di rifaria. Sì, quella rotonda. Sì, sì, le salte le prendono perché sono erbivore, mangiano erba. Tutto. Ti dico pesce macro. Invece, oddio, a 50 pescava, ma se no se non ci devi fare, allora io ti dico una cosa, una volta si è avvicinato a me un ragazzo con una motocarrozzella, mi ha detto, ecco, non è che mi fa un piacere, ma mi fai pescare da come, se ti chiedo solo 10 minuti, dove sei tu? Posso usarlo? Un gran culo, io c'è un gran culo, fidalo. E fa cadere un gran culo, se ha avuto un gran culo, lancia. Oh, Tony, dopo 10 minuti che ti ha preso l'orata, ma di chi si manda? Ha detto, grazie compa, io non sto lavorando, adesso me la vendo. Mi ha fatto un grosso favore, mi ha detto. Sempre. Guarda che allora noi andavamo ai pescherici, tante volte, e ci dava la cassetta dei gran culi, ci dava, ci pescava bene, al pezzo. Un'altra volta a Baracchino chiamava Paranautica, canale 1, e c'era, questo qua non mi ricordo il signore, si chiama, non mi ricordo, ma soprattutto per gli insegnare la pappa. E ci parlava, quasi di notte ci parlava, e lui ha detto, ma sardine non hai? Dice, guarda, ho cominciato a già recuperare un bel po' di sardine, se domani mi porti una cassa, dice, di birra, io ti regalo una cassa di sardine, in cazzo, già, devo fare vino, a graniti a porto, tu alle 6 fa trovare lì, io devo fare vino, cazzo, prendo la birra la sera sul mercato, gliela porto giù, vado a portare, cazzo, mi dà questa cassa di sardine, già, tu non ci credi, era troppo buona per pescare con la sardina. Stiamo buccia di campagna, la zia Maria, però non fa russo. Io per pescare mi sa più che la sardina, la rosa, che rimane più dura. Sì, la rosa è tipo d'arresto. No, è tipo la salvina, però c'è la spina centrale esterna. Si vede, se tu gli passi la mano ti pungi. Ma la rosa pure l'abbiamo fatta qualche volta, no, non mi piace. Neanche il sarretto perché sto per dire sorta che la palla. Riesco a mangiare come pezzo e sto fatto la sardina, perché la fine è morbida e lo so mangiare. Sì, è proprio buona. La sardina, cazzo, puoi fatta essere la unghia, mamma mia, appena la digerisci già sei bizzarra. E io già la digerisco, ecco. Adesso sto messo a mangiare. Buona, buona, pesce azzurro è sempre buona. C'ho un pane al centro, ti davo lo zemino perché lì. E perché no? C'è anche il barbecue, ho fatto qualcosa con la matrice, guarda, devi farlo. Mi devo mettere a giocare le bistecche così buone, che mamma mia. Al fuoco è buono anche il pollo. Anche il pollo è buono, lo stinto così. Tutto è buono, però guarda, come faccio le bistecche. Io ho fatto per due domeniche, la mia compagna si va vicino misto, cazzo quanto è buono. Così su tutto il grasso scende giù ed è salutare, ma buona già, buona veramente, pure per gli uomini. Il condimento che è questo, quanto è buono. L'ha fatto un po' per il giro. Cosa ne metti agli apprezzati? No, io le metto cose per arrotti proprio, non sta funzionando. Quando metto appuccicato, vanno a far parlare. Ah, sì, sì, spiega arrosto, quello che... Quelle spezie miste sono cessate, c'è tutto il metodo. E niente, mi dispiace perché poi quel fuoco mi rimane fino a 8 tardi, quando ho avuto il fuoco a mezzogiorno, ho messo, cominciamo a uscire, si mangia due, hanno un quarto, ma sono nove e mezzo, ma poi questo fuoco, ora c'è molto altro meno sano, ma così sono, bello aperto, ho fatto aperto e ho fatto un po' nel mezzo, e mi metti per fermo aria, e voglio giusto, ho fatto un po' quello che non potevo mangiare, noi dovevo mangiare poco, grazie. E non so già, ma è qualche volta fuori. E va di su, dica, che devo fare ginnastica, di lunedì, la prossima, quante volte camminare io? Io ho il disco che fa male, quando cammino un po' di giro, faccio tanto, fa male, e vedo il dolore. Ma brava la bambina, ma devo mangiare poco, e io non mi mangio a buono, ho detto. Una volta stavo con la tipa, mi ha portato a Santa Maria la Palma, c'erano tutti i pescatori, cazzo, e l'ho portato a Aragosta, hanno fatto la pasta e frutti di mare, tutto fresco, ma cos'è la roba buona che via. La pasta ne ha fatto uno, è presente quel fornello che usano per i pomodori, una cosa, cazzo, una bagnerona ne ha fatto di pasta, cazzo, ma ne sono leccato di vita. Guarda, io, a parte poi quello, quando andavo nelle sagre, mi sono sempre divertito. Quella che non mi è piaciuta per il cuore, ma sono l'altro, parla uguale. Forse fare una fila, poi fare tanto un piattino, mi ero letto, un piccino, un raviolo contatto, un'altra cosa, non so, quanto penso, insomma, in piedi. E poi passa la cosa qua, non se ne ha detto. Non so se ho pagato, mi hai dato una cazzata, sono mai nei piedi e mi dici pure se ne ho morto. Apre il culo, beh, dopo il giorno la dice con Giovanni Balbacchio si mangia tutti e c'era la persona che aveva la gioca rossa. Ma lo sai che non si è andato a mangiare. E... Allora io sono andato a Calici di Stelle. Dove? A Calici di Stelle, a Ussi. Io non mi ricordo lo so, tanti, con Giovanni Balbacchio. Era tutto quanto... Fagli un macato, dice, per me è che era. Ho pagato, mi pare, 10 euro, ci hanno dato il bicchiere e praticamente abbiamo mangiato asparagi arrosto fatto in cartuccio, i cusi, i gnocchetti fatti con la carne di coso, di cinghiale, con solo la carne di cinghiale. Poi, insomma, ci siamo abbuttati. Poi mi telefona mia figlia e mi fa, papà, dove sei? E io, sono a Ossia. No, sto comandando anche lui, dove sei? E lui, te io me ne sto per andare, fatevi trovare, vi do il bicchiere, così entrate gratis. Se non mi date un bicchiere, con dei giri si va andando in quattro. Vai. Ma io poi sono andato alla corte, alla sagra del cinghiale. Lei sarà buona. un'altra volta con la moglie, sono andati e mi sembra stato cinghiale, però a tutta rovina. Basta vedere una fila che abbiamo fatto, ma sono tutta, era anche stato a stare in piedi. E poi per dire chi fu, dei gnocchi, un cinghiale, la mazza di rimpare. A me la carne di cinghiale non mi piace, mi piace più il suetto. Hanno solo gli occhi col tipo del cinghiale, però era tipo la verità. L'unica volta che non ci ho tornato, non ci vado mai più. Poi l'unica cosa è farsela in campagna, una rostita, ragazzi, prendo lo zimino, io c'ho una macelleria, glielo ordino e se lo vendo. Sono da voi già, sto bene, non ce n'è così giocato qua in tua. Allora facciamo una bella pizza e le facciamo con l'osso così si riesce a trovare. Caraga, vabbè, lo organizziamo un giorno, mi pare che bisogna avvisarlo il martedì. Lo portano giovedì, mi pare. Ma cosa farà quello? Come fa? Come lo vuole portare? Che ragazzi. Tanto guarda, ti ripeto, luce di qua anche troppo. Sì, va bene, ciao, va bene. Io non ce l'ho organizzato di roba. Io ci abbiamo avuto la campagna, la sera che la mia madre dice di lui. Poi ci ho passato la cosa grande, non mi manca niente già, ho tutto. Verdura, il vino e ciotta. E tu non dire che guarda. E vino a fiumi, ho birra, birra. No, io ce l'ho segnato, perché il goccio di vino ce l'ho perso. Un po' di vino, qualche goccio perché non lo devo fare. Ma qui io bevo. E vabbè, ma non se lo bevo in due, magari evitiamo che lui. Bisogna evitare anche qualche uno, la persona in gamba, tranquilla. Che si ruba è molto sopra. Ah no. A me guarda, sono qui a abitare, io abitavo più in giù, ero più incasinato perché tutto il giardino era compreso, compreso per l'inglese della padrona Caldino. Quando poi è morta la madre, l'anno scorso, ma io penso di chiedere la cortesia, che cosa, voglio mio padre che lei lì, a lei do la sua casa di sopra, anzi là è più indipendente, non c'è nessuno vicino, può fare quello che vuole, c'è il giardino tutto chiuso, e vabbè, tutto per il padre, che fa. Niente, sono venuto a fare il padre, ti dirò, era un tumulto, ho fatto un guai, ti sono occupato ancora due anni. E dirò che sì, posso fare tutto quello che voglio, non c'è problema. Vabbè, c'è il giardino almeno, se non altro. Guarda, allora, tu, allora, sei l'aiuole e poi c'ho tutti i mattoni e il castro, quelli già precolosi. Sì, già ho capito, per fare, per circondare l'aiuole. E via, anche lo capisco praticamente, tutto in casa, così, cioè, no, aspetta, così. Poi avevo una specie di tappuccino, tutto un casino che era qui, tutto era pulito, era sistemato, gli ho messo la porta, ci ho messo tutto l'imbarazzo, la messa, tanto che erano stati. E insomma, l'ho gettato abbastanza bene e mi sono fatto anche molto piccolino, ho fatto. Mi sono messo la tua, proprio così, citrioli e iceberg. Fatto bene. Tanto partecce. Mi scappa. Niente, non ho inaspettato niente perché stamattina l'ha piovuto qui mio amore. Allora ci ho messo già 10 sacchi da 20, 120 litri e 6 sacchi da 40. E ho fatto allora di 25-30 centimetri di terra sopra la mappa. L'ho tutta recitata e chiusa perché se io e i cani me ne faccio una cosa. I cani giocano, magari ti spacciano tutto, te la piscia, te la fanno. E vabbè, già, quando uno si arrangia serve per sé la cosa. Io invece ho piantato i pomodori di quelli a grappolo che stanno crescendo. E dove è basso? Esatto. E poi come vedo che sta allungando il pomodoro, io ho messo la macchettina perché me l'avevo io che non sto comprando. Io ho messo la rete, l'ho messo anche il cancelletto, l'ho fatto. Ma una cosa carina, ha fatto una tranquilla la bocciale. Ma se i pomodori per piantare cosa bisogna fare? Se no prendere il pomodoro, spaccarlo in due e metterlo sotto la terra, tutto lì, poi innaffiarlo ogni giorno e dopo una settimana ti cresce la piantina. Io sì però. Ma il pomodoro quello da suo. qualsiasi tipo di pomodoro, può essere ciliegino, può essere quello ramattola, può essere quello da sugo, tutti uguali, li spacchi in due e li metti sotto a terra, con i semi verso l'alto, capito? Ah, poi ho chiesto l'aiuto pronto e mi sono piantato un bell'albero di limoni piccolo che ho piantato solo perché l'ho fatto un po' fatto un po' più. Ha pagato. E vabbè, ma la casa non è tua, è in affitto. Vabbè. E te la fanno fare queste cose. Io posso fare tutto quello che vogliono adesso. Te lo sta russando, cazzo. Ovvia. Ma senti, senti, come ho detto, ma quando pure accompagno, mi domani cerco una cosa e non la trovo. Tanto la tua l'acqua avrebbe messo a posto, lo avrebbe trovato. Adesso il mio posto, solo tu fai pulizia, sposti una cosa, la rimetti dove l'ho trovata, perché sono più forte così, solo le sono cose mie, se tu me ne sposti, non la trovo più di cazzo. È vero, è vero. Sì, anche quello che avevo io, quando veniva a casa, anche se era mastrolino, tutte le mattonelle, pulivo, faceva, quando... No, i piatti li lavo io, lascia stare, se non fossi invitato, no, non li lavo io, lavava tutto lì, puliva la cucina, tutto qua, non era una persona come si deve, era... Oh, io non ne voglio, io gli ho detto, guarda, io sto bene, se tu sei a casa tua, sto a casa mia, però... Lei non ne ha voluto sapere, ha detto che gli voleva venire a abitare con me. Basta, punto. Non ti voglio più. Io invece ho sempre la propria cioè, sabato, è rimasto sabato domenica. Poi entro settimana invece martedì o mercoledì viene quella una trombata per curare la compagna. E siamo 10 anni così. Io ne avevo tre capri, io ho incombinato, io ho fatto le cose. E una sa dell'altra, no? No, nessuno sa una dell'altra. Buia, ma come fai? Buio non ci riuscirei a fare doppio gioco. Specialmente per tanto tempo, sì che è capitato una volta, ma anche se starci tanti anni, come fai? È una relazione, non è più l'avventura, capito? E poi per non fottirmi, per non fregarmi, perché devi stare molto attento. Poi chiamava una per il nome e poi si scappa lo stesso nome e con l'altra. Allora, per un problema, io chiamo Amo. E così lo rifaggi mai. Cappa, è un bel trucco, non ce l'ho pensato. Lo parlano con mio cugino. Questo, si può perdere Andrea, mia puta. Ma come fai, gatto tu? Gatto lo chiamo io, che quando si chiama amore, gatto. E niente, no, tra le tre era più complicata la cosa perché cazzo è casino. Io cercavo la scusa, una forognarda la domenica, c'era la mia mamma viva allora, allora si doveva fare. E io per ricordo ho fatto mia madre, invece domenica riuscivo per l'altra, è casino. E se una ti chiede di andare al mare, una domenica te lo chiede anche l'altra cosa fai? No, a me il mare non mi piace, non ce l'ho mai, io ti ho montagna. Io invece patisco per il mare, la montagna non mi piace, il mare mi piace di più. Io ci faccio tutti gli sport, pesca subacquea, pesca con la canna, mi piace andare in barca. Tu pensa che una volta ne avevo una tipa, e la volta ne sono. Era per la figlia, questa qua, e certo conosce la madre, la sorella, il calzino, l'ho fatto un po' di più questa qua. Ho rimasto a Capodanno e io andavo per un saluto e ho fatto Capodanno. Ho cercato la scusa, ho detto guarda, io provo a fare Capodanno con tutti, che sono una volta. Avevo fatto l'informazione, che l'ho fatta. E se non l'ho fatto io, oh, e se ho fatto con quella figlia non è solo, se ho fatto la figlia non è se bastano le tue furie, se ti sgamano ti picchiano te a tre insieme come hanno fatto con un amico mio. Praticamente erano due gemelli uguali, uguali, uguali e si scambiavano una ragazza, uno si dicevano quello che avevano fatto il giorno prima uno con l'altro, avevano una patente solo e se la scambiavano, facevano tutti questi camuffi qua, con una patente guidavano in due. Ora so, io me la sono giocata bene comunque, allora cosa vi posso dire? Non sono a farlo già, cioè, io con questa compagna che diciamo era presa ufficialmente, cioè ero, dico ero, perché non mi ha seguito la vita, non so più niente, non sapeva niente. In 12 anni l'ho tradita 40 volte. No, lavora, tu sei peggio di coso, di come si chiamava quello col naso, va, Franco Califano che ha avuto 1200 donne. No, ma lei, non lo so, mi è capitata, forse è fortunato che è stato un po' così, è un modo di fare con le donne che mi va bene, e mi sono sentito, però la maggior parte un'avventura e vaffanculo qui, due e basta, che mi è capitato una tre ore e per altre palle. Me ne è capitata più di una che mi conosce, ma è fuoriuscita già poco a poco al cazzo, chi sa l'ossia, no, no, no. Oh, gli attoni ti lascio che mi sta venendo l'ambiocco. Qui ci sono troppo orecchi di porco che ascoltano e ascoltano i fatti tuoi. Sì, guarda, capirà. Già non ho fede sulla lingua, ho dato anche il mio numero di telefono, ho avuto questo, che non si vuole fare solo, proprio che non me ne ha fatto nulla. Non dico nessuno, non ho niente da perdere. E qui, guarda, c'è il capo di questo, che me ne ha fatto nulla. Questo, fanno di che importa, che cazzo me ne ha fatto. Non devo dare conto a nessuno. Non ho nessuno che... Non c'è la mia moglie vicino a me, quindi non c'è, sono piccola e faccio quello che voglio. È giusto che sia così, certo. Allora, opportunità. Buonanotte, ci sentiamo domani magari, là, ci aggiorniamo. Ok, d'accordo già. Grazie alla compagnia. State bene, un bel bacio nel Tyson, che è troppo dopo. Ciao, state bene, buonanotte, ciao. Io è secco, poveraccio. Buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte.